Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Da un lato la vicenda Monte dei Paschi, ne abbiamo ampiamente parlato nel nostro GR, e il titolo è di nuovo pesante in borsa, meno 5,44%. C'è la vicenda di un derivato, la spiegheremo perché è molto complicata e soprattutto raccontarla per radio. Un derivato organizzato assieme alla banca d'affari Nomura, il valore complessivo è 500 milioni di euro, però la cosa importante, il nome è Alexandria, non risulterebbe nel bilancio del Monte dei Paschi, e già questo sarebbe strano, ma soprattutto l'ipotesi è che possa avere falsato i risultati del 2009 e avere un impatto negativo di 220 milioni sul 2012, quindi di nuovo problemi per il Monte dei Paschi, banca che ha già dovuto ricorrere all'aiuto dello Stato, 4 miliardi di prestito per la sua capitalizzazione, e che di nuovo si trova in difficoltà con, lo dico molto tranquillamente, ombre, non certezze, ma ombre che si proiettano anche sulla gestione precedente a quella di Viola, e quindi quella di Mussari, attualmente presidente dell'ABI, ma cercheremo di capire esattamente che cosa è successo e quali siano gli sviluppi possibili, anche perché su questo potrebbe muoversi la magistratura stessa. Monte dei Paschi, dicevamo, a mercato chiuso ne parleremo, male anche UbiBanca, meno 1,80%, Mediaset meno 1,40%, e Popolare di Milano meno 1,20%, come Parmalat meno 1% e Snam meno 1%. Chi va bene invece oggi? Finmeccanica più 4%, Enel più 4%, Prysmian più 3,20%, Luxottica più 1,60% come Fiat Industrial, Exor più 1,5% come Diasorin, l'1,20% lo guadagna Mediolanum, l'1% lo guadagna l'Ottomatica e lo 0,90% lo guadagna l'Enel. Ancora tra i temi, parleremo di vari dati macroeconomici che stanno uscendo, non solo la disoccupazione, dati Istat, e il dato complessivo sulla disoccupazione diffuso oggi dall'ILO nel rapporto sulle tendenze globali. Insomma, siamo a 197 milioni di disoccupati nel 2012, il 5,9% della popolazione. Praticamente il numero di disoccupati a livello mondiale è aumentato di 4 milioni 200 mila. Tra l'altro l'Istat fa notare che per quello che riguarda i giovani senza lavoro, che nel mondo complessivamente sono 74 milioni, si allunga il tempo di disoccupazione, della cosiddetta disoccupazione di lunga durata, cioè ci si mette molto più tempo a trovare un lavoro quando lo si è perso. Parleremo di questo con il presidente dell'Istat, ma anche di alcuni dati che arrivano a livello macroeconomico. Ieri abbiamo sentito le parole di Vittorio Grilli, poi le faremo riascoltare quando Vittorio Grilli, ministro dell'economia uscente, quando ha detto prevediamo che il primo trimestre, che diciamo da metà anno, avremo i primi segnali di ripresa economica. Un dato che in qualche modo non dico che vada in controtendenza, ma confligge con il dato invece diffuso di un calo dell'1%, e abbiamo parlato delle revisioni proprio sulle stime fatto dalla Banca d'Italia in settimana, settimana scorsa, che ha raddoppiato le stime sul calo del PIL italiano dal meno 0,4% all'1%. Nel frattempo, ieri la banca centrale tedesca, la Bundesbank, aveva detto l'economia tedesca ha frenato nell'ultimo trimestre del 2012, ma già dal primo trimestre del 2013 ci attendiamo un recupero. E oggi l'indice che misura la fiducia degli investitori tedeschi, l'indice ZEV, è salito ai massimi da 2,5 anni. Mi fate notare al 349-238-6666, che è il numero per scrivere gli sms, così come c'è la pagina di Facebook di Focus Economia, sempre per partecipare al programma, che non ho dato gli indici di borsa. Avete ragione, più 0,36% Milano, che resta comunque la migliore, mentre Parigi perde lo 0,50, Francoforte lo 0,70, Londra invariata, l'America pure invariata. Dicevo, oltre al quadro macroeconomico che si sta delineando, a mio avviso un po' confuso, nel senso che non riesco a capire come puoi fare meno uno ma avere una ripresa a metà anno. Ancora, dicevo, ci occuperemo dell'Ilva di Taranto, perché la situazione diventa sempre più complicata. Arrestato, come vi hanno raccontato i nostri GR, Fabio Riva, ricercato da 2 mesi, dal 26 novembre del 2012, il figlio di Emilio Riva, che è gli arresti domiciliari dal 26 luglio 2012, sono i proprietari dell'Ilva. Vengono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, emissione di sostanze nocive e avvelenamento da diossina e di sostanze alimentari. Si è presentato a Scotland Yard, come concordato con l'autorità britannica nelle scorse settimane, è a Londra in libertà su cauzione, e già domani dovrebbe venire la prima udienza per l'estradizione, il cui iter durerà tra i 40 e i 60 giorni. Molti temi quindi, andiamo rapidamente con le altre notizie in breve. La Banca Centrale Giapponese continua a seguire il governo giapponese nell'iniezione, nel tentativo di far ripartire l'economia, e ha deciso oggi altre mosse di allentamento per immettere liquidità sui mercati. Ha scelto un metodo simile a quello della Banca Centrale Americana, ossia acquista titoli di Stato giapponesi, in pratica stampa anche moneta, e asset relativamente sicuri senza fissare una scadenza. Mentre venendo all'Europa, al di là dell'indice ZEV, oggi dal vertice Ecofin è arrivato il via libera alla cooperazione rafforzata sulla Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie. I paesi che potranno procedere verso la Tobin Tax non è passata per maggioranza totale, ma solo all'unanimità, ma solo per maggioranza qualificata, sono, oltre all'Italia, Belgio, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia. Astenuti perché contrari la Gran Bretagna, lo sapevamo, ma anche la Repubblica Ceca, Malta e Lussemburgo. E a questo punto la Commissione Europea potrà avanzare una proposta dettagliata. E per l'Italia la Tobin Tax, già introdotta, darà un gettito di circa 1 miliardo di euro, lo ha ricordato il ministro dell'economia Vittorio Grilli al termine del vertice Ecofin. Ancora mi fa notare un ascoltatore che ho detto solo Enel, no, è Enel Green Power, ci mancherebbe, che guadagna il 4%, Enel normale, tra virgolette, guadagna lo 0,80%. Andiamo avanti per quello che riguarda la vicenda che portò all'abbassamento del voto alla metà luglio 2012. Il 13 luglio, per la precisione, l'abbassamento del voto sul debito italiano operato da Moody's. È interessante quanto racconta oggi al Sole 24 Ore quello che era il capo analista di Moody's, dell'agenzia di rating, una delle tre che danno i voti ai debiti dei privati, ma anche e soprattutto degli stati, dicevo, Alexander Kokerbeck. Oggi racconta al Sole 24 Ore, lui che era capo degli analisti sull'Italia per Moody's fino a metà luglio del 2012, abbiamo sbagliato a declassare il voto dell'Italia a luglio, abbiamo dato troppo peso al nervosismo dei mercati, forse gli investitori non hanno capito più nulla, sui mercati si è creata confusione, in quel preciso momento ho avuto la netta sensazione che il rischio più grande per il suo paese potesse diventare il suo rating. E dopo lo scoppio della crisi dell'euro, Moody's ha cambiato la metodologia sul rating sovrano e ha attribuito un peso maggiore al nervosismo dei mercati, inserendolo nel modello di valutazione. Mi sembra giusto tener conto di questo rischio, però il ripetuto taglio del rating, del voto, per motivi assai simili, allontana gli investitori e crea un circolo vizioso. In sostanza, cosa dice l'ex capo economista di Moody's per l'Italia, capo analista? Dice: ci siamo mossi troppo seguendo la pancia dei mercati e il nervosismo dei mercati, anche perché abbiamo inserito come nel modello di valutazione, abbiamo dato un grosso peso a questo nervosismo. Ora, da un'agenzia di rating ci si aspetterebbe un giudizio un po' più freddo, perché già ci sono i mercati, le speculazioni e il nervosismo. Tutti aspetti che chi analizza un paese non ragioni come così l'ultimo dei trader, ma con una visuale, un'ottica, l'informazione, la conoscenza del paese, delle prospettive, i fondamentali di bilancio. Invece veniamo a scoprire che, appunto, come l'ultimo dei trader, con una battuta, si è mossa Moody's. Nella seconda ora del programma parleremo con il presidente dell'Istat, Giovannini, anche di come sia possibile avere una ripresa economica quest'anno, noi ce lo auguriamo chiaramente, mentre tutti i dati vanno in peggio. Oggi Rete Imprese per l'Italia, che unisce Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CNA, spero di non aver dimenticato nessuna, ha fatto notare come sia salita a 100.000 la cifra delle imprese morte nel 2012 rispetto al 2011, 100.000 aziende scomparse, e che nel 2013 il peso delle tasse, il peso reale delle tasse, sarà oltre il 56%. Oltre a questo, Rete Imprese per l'Italia fa notare come il reddito pro capite degli italiani sia tornato indietro di 27 anni, ha perso in valori assoluti 880 euro, e quindi per trovare al netto dell'inflazione un livello simile occorre fare un balzo indietro al 1986, come ha ricordato il presidente di Confcommercio e Rete Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli. I dati confermano purtroppo la drammaticità, la profondità, la durata della crisi in cui si trova ancora il nostro Paese. Una crisi che viene da lontano e rispetto alla quale ancora non si riesce a scorgere l'uscita dal tunnel. Ancora due notizie per quello che riguarda l'ospedale San Raffaele di Milano. Come hanno già ricordato i nostri GR, firmato oggi il Ministero del Lavoro un'ipotesi di accordo tra sindacati e la proprietà dell'ospedale San Raffaele, che consentirebbe di evitare 244 licenziamenti. Sostanzialmente pagheranno, allora io lo dico molto tranquillamente, per il buco creato dalla gestione di Don Verzè, pace l'anima sua, oltre 1 miliardo di euro, ne pagheranno le conseguenze i lavoratori. E sappiamo che il buco è stato generato, da quello che vediamo, da quello che ci dicono anche i PM, da investimenti così dubbi, a mio avviso insensati, in attività alberghiere e quant'altro, non certo dall'attività ospedaliera del San Raffaele, che resta un centro di eccellenza in Italia, per cui non è tra virgolette colpa dei medici o dell'ospedale né degli infermieri, però pagheranno le conseguenze i lavoratori. Verrà sottoposto comunque questo progetto, questa ipotesi di accordo, a un referendum tra i lavoratori e firmato il 31 gennaio. È prevista una riduzione dello stipendio medio, del salario, del 9%, il passaggio al contratto della sanità privata da luglio, la revisione di tutti gli accordi sindacali e un piano di smaltimento ferie, cioè dovranno smaltire le ferie arretrate, e armonizzazione dei diritti di maternità. Adesso una notizia prima di passare al tema dell'Ilva, che è una buona notizia, lo dico senza nessun tipo di populismo. Ricorderete la vicenda della scuola di Adro, dove di nuovo si erano bloccate, è bloccato l'accesso alle mense di alcuni bambini perché i genitori non pagano. Allora, lo abbiamo già detto, intanto è giusto che i genitori che hanno una disponibilità economica paghino e che vengano sanzionati per questo. È giusto anche andare a fare accertamenti sul loro reddito reale per capire se sono veramente famiglie in difficoltà oppure sono banalmente evasori che dichiarano poco, ci mancherebbe. Però bloccare la mensa ai bambini non è da paese civile, abbiate pazienza, lo dico anche al sindaco di Adro, con tutte le giustificazioni, che prenditela con i genitori, vai, chiedi un'ispezione fiscale, usa i vigili, fai quello che vuoi, ma voglio dire, prendersela con i bambini, lasciare i bambini fuori dalla mensa è un'assurdità. Ma da quando in qua i figli pagano per le colpe dei padri, già hanno il debito che gli abbiamo generato in questi anni sulle loro spalle. Allora, meno male che anche in questo caso ad Adro già c'era stato un benefattore la volta scorsa, Silvano Lancini, imprenditore di Adro, che aveva pagato tutte le, la quota per i bambini che altrimenti non avrebbero avuto accesso alla mensa. C'è un nuovo benefattore che vuole restare anonimo, ha letto la notizia sui giornali, ha alzato il telefono e ha detto: sono pronto a pagare e risolvere il contenzioso per sempre. Alla fine si è trovata una soluzione attraverso una donazione alla Caritas di Adro che ha coperto l'intero importo del servizio mensa per il 2013 e ha dato la disponibilità a intervenire anche negli anni successivi. La Caritas ha accettato la donazione, il primo bonifico è partito il 21 gennaio, 15 bambini a cui le famiglie a fine mese non riescono a pagare il conto, stiamo parlando di 6.000 euro l'anno, incluso il servizio di autobus, di scuola bus, per tre giorni. La cosa pazzesca è che il benefattore anonimo è rimasto con l'assegno in mano ma non sapeva a chi darlo, sembrava che nessuno lo volesse. Ho speso ora il telefono, ha raccontato lui sulla pagina di Facebook, ho speso ora il telefono per cercare qualcuno che accettasse la mia donazione, nessuno voleva quei soldi, perché la realtà è, dice lui, che ad Adro si combatte da tempo una guerra ideologica dove i bambini vengono usati come scudi umani. Se fosse così è una vergogna, perché se veramente, e non ho motivo per dubitarne, un benefattore che vuole mettere un assegno, dare 6.000 euro per questi 15 bambini che altrimenti non hanno accesso alle mense, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto veramente? Allora, vergogna per il sindaco, siamo qua, chiami quando vuole. E complimenti e applauso al benefattore che alla fine ce l'ha fatta in sto paese assurdo a dare i soldi ai bambini. E già era assurda la vicenda la volta scorsa con Silvano Lancini, che si era indignato come questo benefattore per le scritte apparse su Facebook, personaggi, li qualifico così, che sono arrivati a scrivere: se non hanno i soldi si arrangino. Ripeto, uno va dalla famiglia, fa delle verifiche fiscali, cerca di capire perché le famiglie preferiscono che i bambini restino chiusi fuori dalla mensa piuttosto che pagare, ma se poi si dimostra che c'è una difficoltà economica si viene incontro, se no verranno sanzionati i genitori. Ma cosa c'entrano i bambini? Di Adro, 6.000 euro all'anno, su. Andiamo a vedere quanto è costato mettere e poi levare i famosi simboli della Padania. Sono curioso. Lo cerchiamo sto sindaco di Adro, vediamo se si riesce a trovare. Dai, che oggi mi girano su questo. Vabbè, occupiamoci dell'Ilva invece. Qui la vicenda è ancora più complicata, perché il Tribunale di Taranto, attraverso il GIP Patrizia Todisco, ha accolto la richiesta della Procura sollevando la questione di illegittimità costituzionale sulla legge cosiddetta salva Ilva, cioè c'è uno scontro di nuovo tra poteri dello Stato. Resta quindi sotto chiave l'acciaio sequestrato lo scorso 26 novembre, 1.700.000 tonnellate, valore 1 miliardo. Col provvedimento del GIP restano in carica i custodi giudiziari nominati dal magistrato. Oggi Consiglio dei Ministri, il presidente dell'Ilva è tornato a chiedere il dissequestro dei prodotti per pagare i salari, nel giorno in cui si è consegnato a Scotland Yard Fabio Riva, il figlio, era 2 mesi che era ricercato, il figlio di Emilio Riva, che a sua volta nell'ambito delle inchieste è agli arresti domiciliari dal 26 luglio 2012, ripeto, gli si contestano a Fabio Riva i reati di associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, emissione di sostanze nocive e avvelenamento da diossina di sostanze alimentari. In collegamento con noi da Taranto, Domenico Palmiotti, buonasera Domenico. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Allora, qui siamo di nuovo al braccio di ferro? La vicenda non si è affatto risolta, perché oggi appunto c'è stato il pronunciamento del GIP il GIP ha sospeso il giudizio sull'istanza di dissequestro e poi ha sollevato l'eccezione di incostituzionalità sulla legge che autorizza l'Ilva a produrre ma anche a commercializzare i prodotti finiti. La conseguenza di tutto questo è che i prodotti coils e lamiere, 1.700.000 tonnellate che valgono 1 miliardo di euro, restano bloccati. Per la verità il giudizio del GIP era in parte largamente atteso, perché non più di una settimana fa il Tribunale dell'Appello, investito dello stesso problema, aveva appunto sospeso il giudizio e sollevato l'eccezione di incostituzionalità in merito alla legge. In particolare i giudici dell'Appello avevano contestato alla Consulta soprattutto l'articolo 3 della legge, quello che prevede appunto che l'Ilva possa commercializzare questi prodotti, e avevano detto che questo articolo va in contrasto con 5 articoli della Costituzione. Il GIP di fatto oggi ha seguito la stessa strada, benché nelle ultime ore ci fossero stati vari appelli, inviti, compreso lo stesso vertice di venerdì a Palazzo Chigi presieduto da Monti, dove appunto era stato chiesto a tutti, ma soprattutto alla magistratura, l'applicazione della legge. Però ecco, oggi c'è anche una novità, perché subito dopo questo verdetto negativo del GIP, ripeto atteso, l'Ilva ha presentato una nuova istanza di dissequestro, dove l'Ilva chiede che appunto lo sblocco dei prodotti sia vincolato all'AIA e al pagamento degli stipendi. In sostanza, se questi prodotti venissero liberati, il 1 miliardo di euro che è il ricavato non andrebbe alle casse dell'Ilva direttamente, ma andrebbe appunto al pagamento degli stipendi e all'avvio dei primi interventi di risanamento ambientale prescritti dalla legge. È una novità appunto delle ultime ore. Bisogna dire che il governatore della Puglia, Vendola, aveva chiesto all'Ilva ieri di fare un passo esplicito in questa direzione, e oggi appunto l'Ilva l'ha fatto. Adesso ovviamente la procura dovrà pronunciarsi su questa nuova istanza, decidere appunto se accettarla o meno, visto che c'è questo elemento di novità di un dissequestro vincolato. Ecco, tu ritieni, è chiaro che nessuno può avere una risposta certa, che con questo nuovo passo in avanti, cioè dire quello che lo spiego brutalmente, quello che incasseremo se ci levate dal sequestro i prodotti finiti, verrà utilizzato anche in primo luogo per, chiamiamola così, la bonifica ambientale, si possa arrivare a un accordo? Sicuramente, voglio dire, da parte dell'azienda c'è un passo avanti, però sarei molto cauto sulla risposta da parte della magistratura. Temo piuttosto che il sequestro possa rimanere, perché vedo che in fondo la questione si è molto molto radicalizzata. Sì, addirittura appunto di nuovo lo scontro tra poteri, no? Nel senso, oltretutto, tra l'altro adesso, con un governo uscente che rende, per carità, pienamente operativo, però insomma, rende tutto più difficile, perché manca poi la controparte politica, mettiamola così, no? Sì, certo, adesso diciamo che la decisione è nelle mani della Corte Costituzionale, e bisogna fare attenzione, perché la Corte Costituzionale il 12 febbraio si pronuncia sull'ammissibilità o meno del conflitto di attribuzione che ha sollevato la Procura a fine anno sul decreto legge. Due giorni fa il procuratore ha detto che la questione del conflitto di attribuzione è sì importante, ma ben più importante invece l'eccezione di incostituzionalità che hanno presentato i giudici dell'appello qualche giorno fa e che oggi ha presentato anche il GIP. Su questa materia non c'è ancora una data circa la decisione della Consulta. Ecco, non è che il 12 febbraio la Consulta si pronuncia anche su questo. Sull'eccezione di incostituzionalità della legge dovrà pronunciarsi successivamente, una volta che le carte saranno appunto arrivate alle Corte Costituzionali. Quindi il rischio molto concreto che questa vicenda, questo stallo vada avanti ben oltre il 13 febbraio, e ovviamente delineando scenari per nulla buoni per Taranto, per Novi Ligure. Sì, e ripeto, la linea è sempre quella, cioè bisogna mettere in sicurezza ambientale questi impianti, se ci sono responsabilità dei Riva che vengano perseguiti, però in questo momento è anche una priorità pagare gli stipendi ai dipendenti dell'Ilva, no? Non si può sempre ridursi a dire o paghi gli stipendi o metti a repentaglio la salute, cioè se paghi gli stipendi metti a repentaglio la salute. Mi sembra veramente un'alternativa comunque perdente. Speriamo, vediamo cosa anche capiterà oggi dal Consiglio dei Ministri. Domani comunque il Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, incontrerà prima i vertici dell'Ilva e poi in prefettura i rappresentanti delle parti sociali delle istituzioni. Grazie intanto a Domenico Palmiotti in collegamento con noi da Taranto. Grazie a voi. Vedo, adesso andiamo in pubblicità, vedo molti messaggi, a parte quelli diciamo a favore, sulla vicenda di Adro, al 349-238-6666. Allora, vediamo di chiarirci. Silvano Lancini fu l'imprenditore di Adro che, la prima volta che scoppiò questa vicenda, nel 2011, diede un assegno per pagare le mense ai bambini che altrimenti non avrebbero avuto accesso, e per questo fu insignito dal titolo di cavaliere dal Presidente della Repubblica Napolitano, e si chiama Silvano Lancini. Ho detto semplicemente, se i genitori non pagano perché vogliono fare i furbi, bisogna perseguire i genitori, ci saranno strumenti fino ad arrivare all'accertamento fiscale. Facciamo scattare un accertamento fiscale in automatico, visto che tu sostieni di non avere i soldi per pagare la retta per la mensa di tuo figlio, va bene, andiamo a fare dei controlli, ma scaricare tutto sui bambini senza aver accertato questo, oppure il sindaco lo sa, lo ha accertato, allora dica esplicitamente che tutte queste famiglie sono ricche, evasori, e non vogliono pagare la mensa, o lo dice apertamente, o se no bloccare i bambini fuori dalla mensa, e stiamo parlando di 15 bambini, perché i genitori non hanno pagato la retta. Mi sembra un metodo barbaro, così come mi sembrano barbari, lo dico con molta tranquillità, alcuni dei vostri messaggi. Ma come si fa a dire, vabbè, il mercato, se non hanno i soldi fuori dalla mensa, ma quanto ci siamo imbarbariti? Ma stiamo scherzando veramente? Per i genitori, cioè con il paese che ha il più alto tasso di evasione in Europa, ce la prendiamo con i bambini, non con i genitori. Andate a fare le verifiche sui genitori. Ma io non lo so, c'è chi dice giusto, non vogliono pagare, giusto che se la prendano con i figli. State facendo retorica assurda, vergognati tu buonista del cavolo. 17:40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, visto che stanno arrivando molti messaggi, restiamo sul tema della scuola di Adro, perché ce ne siamo dovuti occupare oggi. Ho torto collo, ricordo, un anonimo benefattore milanese ha alzato il telefono, è rimasto per giorni in attesa con un assegno, finalmente tramite la Caritas ha accettato la donazione, in modo che i 15 bambini che in questo momento nella scuola non possono accedere alla mensa perché i genitori non hanno pagato la retta, possono mangiare in mensa con gli altri. Il principio è, a mio avviso, è un principio di civiltà, prenditela con i genitori in tutti i modi possibili, vai a fare accertamenti fiscali, informi Equitalia, informi l'Agenzia delle Entrate, ma che cavolo c'entrano i bambini? Evidentemente non tutti sono d'accordo, c'è chi scrive ma sono tutti zingari e slavi che vadano a fare, lei è un testicolo, lo dice in un altro modo, vabbè, allora se sono zingari e slavi fuori dalla mensa, no, chiedo. Va bene così, e ancora a calci nel di dietro i bambini di chi non vuole pagare la retta. Allora siamo in collegamento con il sindaco di Adro, che non è Silvano Lancini, alcuni hanno fatto confusione con gli sms su Facebook, che è l'imprenditore che 2 anni fa staccò l'assegno, ma è Oscar Lancini, che è il sindaco di Adro. Sindaco, buonasera, grazie. Buonasera, grazie a voi. Ci tengo a precisare che non c'è nessun rapporto di parentela con quel signore. Guardi, con il cognome. Sì, l'avevo individuato, forse immaginato che tra lei e Silvano Lancini. Meglio chiarire. No, certo. Ognuno sulle sue posizioni. Senta, mi dica una cosa, ma questa vicenda del è possibile in un paese normale perseguire, giustamente, se qualcuno non vuole pagare una retta e ha i soldi, e quindi in questo caso o perché è un evasore dichiara meno del previsto e allora si va a fare un accertamento, oppure in altro modo senza coinvolgere i bambini, perché sennò con lo stesso principio dovrei dirle che ogni volta che c'è un evasore fiscale facciamo pagare le conseguenze ai figli, mi dica. No, ma guarda, c'è una confusione di base che evidentemente è dettata dal momento in cui siamo, evidentemente sì. Siamo in campagna elettorale e qualcuno sta usando i bambini per farsi propaganda elettorale. Ma i bambini vanno in mensa o no? I bambini sono sempre andati in mensa, i bambini hanno sempre mangiato. Quindi questo bonifico non serve? Il bonifico da 6.000 euro non no, serve? Calma. Questo l'ho dato di fatto fino ad oggi. Poi, i bambini non devono essere tirati in ballo. Mm. Poi, i bambini non sono obbligati a frequentare la mensa. I bambini possono andare a casa a mangiare, non sono obbligati a mangiare lì. Quindi, quella famiglia di quei genitori che chiede, che non ritiene essere in grado di pagare la mensa, prende il bambino, lo porta a casa, il bambino mangia a casa, poi lo riporta a scuola, come fanno tante altre persone che per scelta loro hanno ritenuto di preferire di avere a casa il figlio e quindi fare anche due chiacchiere a tavola mentre si pranza piuttosto che avere il figlio in mensa. Senta, non c'è nessun principio. Ma al di là di questa immagine da Mulino Bianco, però se uno vuole aspetti, è ovvio sindaco, è ovvio che se uno preferisce che il bambino mangi in mensa, ma manco ce ne occupiamo, non è che stiamo a perdere tempo. Io voglio capire, voi avete dato una delibera per cui se non viene pagata la retta i bambini non entrano in mensa, sì o no? Cioè questo benefattore milanese anonimo che stacca 6.000 euro la carica, io non conosco, guarda, se è anonimo e anche a me non lo conosco, no, sindaco, scusi, però dai, io non ho notizia che il comune di Adro abbia ricevuto telefonate da chi che sia e che non sia riuscito a parlare con me per giorni e giorni. Vabbè, comunque, di qualcuno che dice che vuol dare dei soldi alla mensa. Comunque la Caritas di Adro ha accettato e ha coperto l'intero importo del servizio mensa per l'anno 2013, le risulta o no? Non glielo so dire, non mi risulta, in comune non c'è nessun atto di questo genere. Faccio presente che la mensa non è gestita direttamente dal comune, ma da un'associazione di genitori che evidentemente deve avere la copertura delle spese, perché se non ha la copertura delle spese la mensa chiude. Allora, ritorno sulla domanda, mi scusi, ma è possibile, perché io sono per il rispetto della legalità, questo è un programma che da sempre si batte contro l'evasione. Allora, se ci sono delle famiglie che fanno, dei genitori che fanno i furbi, vanno beccati. Ma mi chiedo, è possibile individuare, no, guarda, come fai a dire che non hai soldi con questo reddito o con questo tenore di vita? Sì, senza... tant'è vero, mi dica. Le scusi se la interrompo, ma è così già oggi. I genitori che hanno presentato ai servizi sociali tutta la situazione economica della famiglia, quindi il reddito ISE e i servizi sociali, compatibilmente evidentemente con quelle che sono a disposizione del bilancio, che abbiamo a disposizione, è vero, hanno ritenuto opportuno intervenire su quella famiglia, sono state aiutate. Qualcheduno gli è stato pagato tutta la mensa, a qualcheduno è stato pagato il pregresso dell'anno precedente, perché il regolamento prevede che se non hai pagato il saldo non puoi iscrivere il figlio alla mensa dell'anno dopo. Queste famiglie sono state aiutate. Altre famiglie non le abbiamo mai viste i servizi sociali e oggi lamentano questa cosa, e altre famiglie ancora si sono presentate i servizi sociali ma non hanno la documentazione idonea perché i servizi sociali erogano il contributo. Quindi cos'è che succede? Perché è inutile che voi continuate a fare le fregnacce sui bambini, perché poverini bambini qua e poverini bambini di là. Quelli che oggi non sono stati aiutati dai servizi sociali e hanno chiesto è perché non rientrano nelle fasce previste dalla legge. Gli altri, cioè tutti quelli che a seguito del calcolo ISE rientravano, sono stati aiutati. Allora, sindaco, ciò non toglie, questo significa che sono i furbetti quelli che sono rimasti fuori. Poi se c'è un benefattore che viene da Milano, che viene da Roma, che viene da Napoli e vuole usare i suoi soldi come ritiene meglio lui, lo può fare quando vuole. Quello che sottolineo io è una cosa diversa. Se noi aiutiamo le persone che hanno bisogno, i poveri, io sono il primo. Se noi aiutiamo i furbetti, significa dare uno schiaffo a quelli che con difficoltà guardi, nessuno con quelle che le ha chiamato fregnacce, ha mai detto qui che voi dovete aiutare, ci mancherebbe. Ce l'avranno tutti quanti con Adro, però quello che sto dicendo è una cosa diversa. Va benissimo per seguire i genitori. Io non ho capito perché la Caritas, allora lei parli con la Caritas di Adro, così vi capite, la Caritas accetti, accetti la donazione, perché altrimenti 15 bambini restavano fuori dalla mensa. Questo è il punto. Dopodiché lei, giustamente, essendo il sindaco, conosce i suoi concittadini, no, e va a vedere cose. Le posso dire una cosa? Sì? Qui stiamo parlando di 6.000 euro l'anno, giusto? Giusto? Non lo so. Come non lo sa, il sindaco fa lei, non lo sa, vabbè, non lo sa. Scusi, allora vede che stiamo parlando di cose dove voi sapete solo quello che vi fa comodo. La mensa quello che non viene detto, è gestita, vabbè, quello che il costo, ok, va bene. Allora, il costo a noi risulta, così il dato ce l'ha anche lei, di 6.000 euro. Lei si ricorda quanto è costato levare le stele della Padania dalla scuola di Ado dopo che avete messo? 0 euro. No, zero. 30.000 euro, sindaco. No, 30... è una bugia. Va bene, dire bugia, va bene, è una bugia. Non è costato... Sulla base di che cosa dice questo? Non è costato sulla niente. Sulla base va di che bene. Cosa lei afferma su questo? Su quello che è stato pubblicato da tutti i giornali. È un una costo. Bugia, han fatto tutto, è una han bugia. Fatto tutto gratis. Scusi, sindaco, sì. Le auguro buona giornata, ma buon lavoro. Ma se lei porta avanti la trasmissione va così, bene, non si proprio per lei. Ma questa non è informazione, lei pensa avere i dati su di quanto costano questi bambini, visto che non ha nulla, non sa se li ha avuti i soldi la Caritas, non sa quanto costano. Io la ringrazio, devo mandare il traffico, se non ce l'ho con lei. Faccia una bella cosa, mi dia retta, faccia richiesta di accedere agli atti va bene. Del comune. Che sono allora dovevate smentire la notizia quando è uscita 2 anni fa, non c'è una smentita del comune. Ma cosa vuole che corra dietro alle bugie dei giornalisti? Va bene, ma io altro tempo, non ho tempo da perdere. Perfetto, l'occupi per avere i dati su quanto costano i bambini, la ringrazio. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso torniamo a occuparci dei temi anche di finanza, e quindi la borsa. Oggi la borsa ha voluto dire soprattutto Monte dei Paschi, meno 5,70%, è il caso della giornata dopo quello che è apparso sul Fatto Quotidiano, ossia un'operazione su un derivato, Alexandria, che potrebbe avere falsato tutti i risultati del Monte dei Paschi nel 2009. Ma anche pesare sul bilancio di quest'anno, del 2012, quindi l'anno che si è appena chiuso, per 220 milioni di euro. E allora parliamo in primo luogo, la borsa ha chiuso con un più 0,48%, però parliamo in primo luogo del Monte dei Paschi. Allora, che cosa è successo sulla vicenda del Monte dei Paschi? Siamo qui con il collega del Sole 24 Ore, Moria Longo. Praticamente, se ho ben capito però, il Monte dei Paschi avrebbe fatto un'operazione, tra virgolette, segreta, legata con Nomura, per nascondere perdite del bilancio del 2009. E tra l'altro, un'operazione da 500 milioni di euro, dicevo, tra l'altro, operazione non presente nei bilanci, Moria. Allora sì, funziona così. Il peccato originale risale a fine 2005, inizio 2006, quando Montepaschi compra un titolo da Dresdner, un titolo altamente speculativo per 400 milioni, si chiama CDO, è un titolo obbligazionario con sottostante una serie di altri rischi, tra cui mutui, eccetera, eccetera. Quelle cartolarizzazioni di cui tanto abbiamo parlato all'inizio della crisi nel 2007. Lo compra per 400 milioni, il problema è che pochi anni dopo inizia la crisi finanziaria, questo titolo crolla, da 400 milioni perde 220 milioni. Allora il Monte Paschi fa con Nomura un'operazione per ristrutturare sostanzialmente il rischio di questo titolo e sostanzialmente per portare la perdita da un'altra parte nel bilancio, per non farla emergere in questo CDO, in questo titolo altamente speculativo. Cosa fa? Con Nomura fa un'operazione di, si chiama asset swap, acquista BTP trasformati in tasso variabile, una cosa molto complessa. Tra l'altro i soldi se li fa prestare da Nomura stessa, quindi è Nomura che dà 3 miliardi al Montepaschi dando in garanzia dei titoli che poi dei BTP che poi Montepaschi acquista. Sostanzialmente in questo modo il Montepaschi riesce a spostare la perdita da 220 milioni di cui parlavi tu, che era la perdita in questo titolo altamente speculativo, che nel 2009 era considerato titolo tossico, riesce a spostare questa perdita nel bilancio in un portafoglio di BTP, quindi di titoli. Nel 2009 allora non c'era la crisi dell'Italia, erano ancora titoli diciamo buoni, Quindi sposta la perdita e la spalma in un numero lunghissimo di anni, una trentina d'anni. In questo modo quindi riesce non solo a spalmare la perdita in 30 anni, ma a rendere la perdita anche un po' più accettabile dal punto di vista dei mercati. Cioè non dichiara di aver avuto una perdita su un titolo strutturato, un titolo tossico, ma dichiara di aver avuto una perdita minima e poi spalmata negli anni su BTP, quindi ai tempi erano titoli sicuri, eccetera, eccetera. Quindi è un'operazione L'operazione non è di per sé stessa illegale, anzi è un'operazione che si può fare. Il vero problema nasce, tanto su questo sta indagando la magistratura? Sì, credo di sì, così capisco dalla... Non c'è ancora nessuna notizia però di reato, però la cosa importante è che questa operazione, che poteva tranquillamente essere fatta se fosse dimostrata vera, andava messa a bilancio. Cioè tu poi anche è un po' di maquillage finanziario, lo sappiamo, però il vero problema mi sembra non tanto il rapporto con Nomura quanto che di questa cosa poi tutto fosse stato messo a tacere. Sì, il contratto è stato messo a tacere, le perdite dovrebbero piano piano materializzarsi nell'arco appunto di questi 30 anni. Il problema è proprio questo, che la finanza permette molto spesso di fare operazioni che pur nella loro legalità riescono di fatto a trasformare i bilanci, a renderli più appetibili, a renderli meno, cioè comunque a occultare determinate magagne, diciamo così. :07 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per continuare con la borsa dopo la vicenda Monte dei Paschi, che è il caso di borsa. Due risposte le voglio dare però sulla vicenda di Adro, che non può monopolizzare il programma oggi. Ognuno la può pensare come vuole, che ha ragione il sindaco, che ho ragione io, non importa. Lo spazio gli abbiamo dato. Due cose però, abbiamo detto fin dall'inizio che se i genitori non pagano la retta e hanno le possibilità economiche, vanno perseguiti. Su questo, perché ci sono altri ascoltatori che dicono che è una pratica diffusa di gente che dichiara molto meno del suo reddito, ci mancherebbe. In secondo luogo, alcuni dicono: ma lei non era informato. No, veramente, col massimo rispetto, il sindaco non mi ha fornito né la cifra, non sapeva dei 6.000 euro, non sapeva che la Caritas di Adro avesse ricevuto una donazione. Beh, si può informare anche il sindaco. Quanto alla cifra di 30.000 euro per togliere il sole delle Alpi, visto che 6.000 euro sono un problema, non è che ce la siamo inventata. C'è una dichiarazione resa alla stampa in quel periodo e dallo stesso sindaco leghista, quindi ad Oscar Lancini, che è quello che avevamo nel telefono, che sostiene ai giornalisti, dice: posso rimuovere i 700 soli delle Alpi, ma chi si accollerà la spesa di 30.000 euro? Oh, è lui che l'ha detto. Tutti possiamo informarci di più, ma mi sembra che il sindaco su questo non sapesse nulla. Quindi attendiamo rettifiche, che si informi con la Caritas di Adro, e magari se l'anonimo benefattore vuole chiamarci per dire: guardate che ho provato a dare questo assegno, come sostiene su Facebook, e nessuno mi ha risposto, prendiamo volentieri la sua telefonata. Detto ciò, la borsa. Più 0,48% il FTSE MIB, meno 0,60 Parigi, meno 0,70 Francoforte, invariata Londra, e l'America adesso leggermente positiva, più 0,14%. Del Monte dei Paschi, della vicenda del derivato Alexandria, domani avremo un ulteriore approfondimento, perché il Sole 24 Ore sta cercando di ricostruire l'intera vicenda. Monte dei Paschi, dicevo, meno 5,70%, negativa media 7-1,40, UbiBanca meno 1,30, positiva e anche di molto Finmeccanica, più 4,70%, Enel Green Power più 4%, Prysmian più 3,30, Fiat Industrial più 1,90, Luxottica più 1,70, Diasorin più 1,5, Exor più 1,30, come Mediolanum, Lottomatica più 1,1, Campari più 1%. Guido Maurino, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, Finmeccanica. Sì, per quello che riguarda Finmeccanica, oggi il titolo è stato un po' spinto dalle accelerazioni sulla vendita di Ansaldo Energia. Domani è atteso un CDA di Finmeccanica che viene considerato in qualche modo decisivo. L'amministratore delegato Orsi fornirà gli aggiornamenti sulle offerte arrivate dalle due società coreane, Samsung e Doosan, che sono rimaste le ultime 2 in corsa per accaparrarsi al saldo energia. L'obiettivo è chiudere l'operazione entro febbraio e insomma Finmeccanica si avvantaggia di queste notizie. Sì, vedo ancora molti messaggi al 349-238-6666 sul Monte dei Paschi, ripeto, e anche su Facebook, nella pagina del programma Focus Economia. Ripeto, torneremo domani perché la vicenda si è appena aperta, anche perché qui bisogna capire se ha ragione Nomura che dice che i vertici erano informati o il Monte dei Paschi che dice che al Consiglio di Amministrazione non è mai stata sottoposta la pratica, il dossier Alexandria, l'ultima infatti comunicazione del Monte dei Paschi, dell'ufficio stampa del Monte dei Paschi, recita proprio così: non risulta che tale operazione sia stata sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena. Noi andiamo avanti ancora sui titoli oggi. Bene anche Enel Green Power, più 4%, e Prysmian, anche l'ex Pirelli Cavi, più 3,35%. Bene anche di nuovo Camfin, che si è ben visto oggi con un più 8%. La finanziaria che controlla il gruppo Pirelli è arrivata ai massimi da 5 anni? Sì, Camfin è arrivata ai massimi da 5 anni, si continua un pochettino a speculare su cosa può succedere all'interno dei suoi assetti proprietari, nonostante le smentite della società. Nei giorni scorsi c'erano state diverse indiscrezioni che davano la possibilità che nel capitale di Camfin potesse posizionarsi il Fondo Sovrano del Qatar o altri investitori. E insomma il mercato continua a scommettere ancora su questa finanziaria che controlla Pirelli. Oltretutto Pirelli ha già fatto più 0,63%, ma anche per Pirelli ci sono possibili novità in vista, dal momento che si sta trattando, secondo quanto riporta un'indiscrezione di stampa oggi, si starebbe trattando un'alleanza nelle gomme per i camion, insomma staremo a vedere. Sul Monte dei Paschi c'è chi dice: siete troppo morbidi, ovviamente, perché è vicino al PD. No, guardi, abbiamo parlato del Monte dei Paschi in decine di occasioni. Quando una banca chiede 4 miliardi di aiuto, di prestito allo Stato, è chiaro che la gestione non è stata esaltante. Quando una fondazione come quella del Monte dei Paschi si trova in difficoltà estreme, è chiaro che la gestione non è stata esaltante, per essere buoni. E quando chiaramente si mette a repentaglio anche l'esistenza della prima banca, tuttora la più vecchia banca al mondo, il Monte dei Paschi di Siena, è chiaro che la gestione non è stata esaltante. Dopodiché, se si scopre pure che hanno occultato delle perdite, lì si va direttamente nell'inchiesta della magistratura e anche nel penale, forse. Per cui, e domani torneremo sul Monte dei Paschi perché vogliamo capire se questa operazione l'ha condotta Jérôme Kerviel pure lì, cioè un anonimo trader, oppure i vertici ne fossero o non ne fossero informati. Andiamo avanti. Prysmian, dicevo, Fiat Industrial più 1,90%, UbiBanca. Sì, per quello che riguarda UbiBanca meno 1,34%. Meno 1,34%, paga un po' le notizie relative ai rilievi di Banca Italia sulla controllata UbiLeasing. Oggi il Messaggero ha pubblicato ampi stralci di un provvedimento sanzionatorio verso l'istituto da parte della Banca d'Italia, da cui appunto emergerebbero diverse anomalie nell'erogazione del credito di UbiLeasing. Vale la pena ricordare che la controllata di Ubi è stata anche recentemente ricapitalizzata proprio per far fronte a questi crediti deteriorati. Ancora migliori e peggiori in assoluto per quello che riguarda oggi El Venture Group più 19,90, Premafin. Sì. Premafin di nuovo forte oggi, più 18,60%. Sì, per quello che riguarda Premafin continua un pochettino la speculazione su cosa eventualmente potrebbe succedere nel momento dell'integrazione Unipol-Fonsai. C'è la questione del recesso dei vecchi azionisti, che comunque teoricamente non dovrebbe giustificare questi forti scostamenti. Comunque Premafin, che ricordiamo un flottante molto limitato e movimenti praticamente irrisori dal punto di vista delle quantità di soldi scambiate, però anche oggi ha fatto più 18,6%. Ultima parte di Focus Economia, arriviamo adesso all'intervista con il presidente dell'Istat. Prima però vi vorrei far ascoltare che cosa ha dichiarato la nostra Maria Luisa Pezzali oggi, il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary. We continue to grow in Italy. Last year we carried about 22 million passengers. No. Continuiamo a crescere. Stamattina abbiamo annunciato 4 nuove rotte da Ciampino, oggi da Bergamo e dopo da Pisa. Quindi Ryanair in Italia l'anno scorso ha trasportato 22 milioni di passeggeri, il prossimo anno trasporterà 24 milioni di passeggeri. Molto importante Ryanair in Italia, ma è molto importante l'Italia per Ryanair anche per le nuove generazioni e per la crescita. La questione fiscale con l'Italia è stata chiarita in che termini? Abbiamo sempre seguito la normativa per quanto riguarda le tasse dei dipendenti in Italia. Se la legge è cambiata non la seguiremo. Sui nuovi dipendenti la income tax continuerà a essere pagata in Irlanda perché volano e lavorano su aerei registrati irlandesi. Se la legge cambia non la continuiamo a seguire, sia quella italiana soprattutto quella europea. In ordine a questo adeguamento ci sarà un ritocco delle tariffe? No, non è un grosso impatto perché comunque le persone che pagheranno le tasse in Italia non le pagheranno più in Irlanda, quindi non è un grosso impatto. Quello che fa Ryanair continua a crescere, c'è un nuovo ordine di aeromobili, quindi cercando di incrementare le rotte e di crescere. All'Italia è in crisi, in un futuro potreste essere interessati agli slot all'Italia? No, I don't think so. I think, you know, like Alitalia is struggling with the same problems that many of the legacy airlines have. Sì, l'Italia è in difficoltà attualmente, c'è una ristrutturazione in corso come anche altre compagnie in Unione Europea, tipo la SAS, Iberia, LOT. Quello che pensiamo appunto che Alitalia verrà presa da Air France, quindi ci sarà un takeover da parte di Air France e diventerà più piccola, magari con meno rotte, però è importante comunque che rimanga perché la competizione, diciamo, è importante in Italia, così che ci fosse l'Italia e Ryanair, appunto, che questo può aiutare il turismo italiano nella crescita, soprattutto per portare più turisti possibili, quindi ben venga. Progetti in cantiere per l'Expo 2015? Yeah, we have projects in Milan for 2013, 2014 and 2015. Bergamo are extending the terminal. Prima del 2015, quindi 2013-2014, abbiamo dei piani di crescita a Bergamo. Anche l'aeroporto qui sta comunque migliorando il terminal, quindi l'obiettivo è quello di aumentare le rotte per la prossima winter, quindi per la prossima stagione invernale, già l'abbiamo fatto per la stagione estiva, quindi l'obiettivo è sempre quello di migliorare, comunque di aumentare il numero di rotte. Queste dichiarazioni il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, le ha rese la nostra Maria Luisa Pezzali oggi a Bergamo, ricordando anche che Ryanair sosterrà 7.000 posti di lavoro in Italia, in realtà la maggior parte sono posti già esistenti. Lo dico perché al di là delle esultanze di Ryanair che ha chiuso nel 2012 con un più 10%, oltre 22 milioni di passeggeri, è un altro caso in cui un gruppo straniero dice: attenzione, noi puntiamo sull'occupazione nel vostro paese. E lo dice nel giorno in cui l'Istat invece fa notare come ormai il dato del 2011 però vi siano 8 milioni di poveri, l'11% delle famiglie italiane, 3 milioni e mezzo di persone in povertà assoluta. Ma dice anche: attenzione, la ripresa arriverà moderatamente da metà del 2013. Siamo in collegamento con il presidente dell'Istat, Enrico Giovannini. Buonasera, presidente. Buonasera. Prima domanda, ma come si sposa la vostra previsione di una ripresa dalla seconda metà del 2013 con il dato della Banca d'Italia della settimana scorsa che ha raddoppiato il calo del PIL per l'Italia nel 2013 da meno 0,4 a meno 1%? Qui intanto stiamo parlando di previsioni e quindi ci possono essere visioni diverse quando si parla ci mancherebbe, del futuro. Ci mancherebbe. Il punto fondamentale è che quello su cui tutti i previsori concordano è che la ripresa, sia essa destinata ad avviarsi nel terzo trimestre o nel quarto trimestre o come dice qualcuno nel primo trimestre 2014, sarà una ripresa molto debole, cioè una ripresa non capace di generare quella spinta sull'occupazione in grado di recuperare la cassa integrazione in termini di ridurre la disoccupazione, di aumentare l'occupazione. Questo non vale soltanto per l'Italia, ma vale anche per altri paesi in cui c'è stagnazione o addirittura, come abbiamo visto anche in Germania, un leggero segno meno nel quarto trimestre del 2012. Ecco, dalla Germania però ieri la Banca Centrale, la Bundesbank, e oggi l'Istituto ZEW, che è molto importante in Germania, dicono, insomma, siamo ottimisti sui primi tre mesi dell'anno. Io non sto capendo più niente, nel senso che la Germania ha frenato negli ultimi tre mesi del 2012 e già è pronta a ripartire, che sarebbe, tra virgolette, anche una buona notizia per noi? Ma certamente stiamo parlando di variazioni intorno allo zero, questo ecco. È il punto chiave. Cioè, statisticamente, un più 0,2 o un meno 0,2 non fanno una differenza. Sempre di prefissi enorme. Telefonici parliamo. Diciamo. Esattamente. E quindi il tema è proprio quello di riuscire ad avere una crescita più robusta, trainata da cosa? Questo è il grande punto interrogativo. Le esportazioni italiane e anche quelle europee, che pure vanno bene nei confronti del resto del mondo, in questo momento sono anche frenate da un euro particolarmente forte. Ciononostante, molte imprese esportatrici fanno bene, guadagnano posizioni sui mercati e quindi chi è orientato soprattutto ai mercati emergenti va bene. Invece in Europa abbiamo una domanda interna per consumi e per investimenti bassa, quindi chi esporta verso l'Europa va meno bene. Secondo, chi invece si orienta al mercato interno, produce per le popolazioni europee beni e servizi tipicamente interne, va male perché la fiducia è scesa, certo. I consumi sono scesi, gli investimenti non riprendono. Questa divaricazione tra settori spiega perché magari in un trimestre ci possa essere un più zero qualche cosa e in un altro trimestre meno zero. Ma sempre intorno allo zero stiamo navigando. Senta, Presidente Giovannini, lei citava chi va male e soprattutto, lo ricordiamo spesso, chi lavora col mercato interno. Non è però un caso, visto che anche oggi è arrivato un altro dato da Rete Imprese per l'Italia, quindi Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, in cui al di là di stimare un peso delle tasse, peso reale delle tasse nel 2013 oltre il 56%, si calcola come il reddito pro capite, quello reale, essendo calato in valori assoluti di 880 euro nel 2012, a livelli reali, quindi al netto dell'inflazione, fa un balzo indietro a 27 anni fa. Ora le chiedo, se lei fosse il prossimo Presidente del Consiglio, che cosa chiederebbe l'Europa e che manovre farebbe? Beh, è una domanda molto complessa. Provo a rispondere senza... Ma ipotetica, diciamo. Assolutamente. Ipotetica. La vera domanda, a mio parere, è come si fa a riassorbire 24 milioni di disoccupati nell'Unione Europea. Perché è un numero che è notevolmente alto, ma soprattutto è un numero che non sembra destinato nel breve termine a contrarsi, anche perché, come dicevamo prima, il pendolo economico si sta spostando verso i paesi più emergenti. Quindi, primo problema, se non si aggancia la crescita di questi paesi non si va molto lontano. Secondo, investimenti pubblici a scapito della spesa pubblica corrente possono aiutare su alcuni fronti, ma l'effetto sarà di medio termine. Allora la vera domanda è come si fa, spingendo per una crescita che arriverà un po' più avanti, a gestire una situazione sociale così esplosiva come quella che i dati indicano. Ed è qui dove Juncker, per esempio, nei giorni scorsi ha rilanciato l'idea del reddito minimo di cittadinanza, cioè il fatto che nessuno possa essere lasciato indietro in una situazione di questo tipo. Sì, Presidente Giovannini, lei sa benissimo però che un'ipotesi come questa, cioè di un intervento di welfare sul reddito minimo, significa soldi, trovare le risorse. Allora, lei è d'accordo che accanto a una politica di rigore sui conti, per carità, e anche di sostenibilità della spesa per la previdenza, l'Europa debba interrogarsi se non fare come ha fatto il Giappone e gli Stati Uniti, cioè iniziare a buttare un po' di, non buttare via, ma immettere un po' di risorse per far ripartire l'economia o no? Dipende da che cosa parliamo come risorse, mi spiego. Abbiamo all'interno dell'Europa un problema di competitività della parte sud dell'Europa rispetto al nord e così via. E l'Europa ha complessivamente un problema di competitività rispetto agli altri paesi. Qualsiasi aggiustamento in una fase di stagnazione rende estremamente difficile tagliare qualcosa per fare qualcos'altro. Questa cosa va fatta in ogni caso, ma è chiaro che se riuscissimo a far crescere le esportazioni di tutto il continente, questo renderebbe meno stringente questi vincoli di cui stiamo parlando. Ed è qui dove il problema del cambio, a mio parere, che oggi è schiacciato, l'euro è schiacciato da una politica come quella che lei diceva del Giappone e degli Stati Uniti, che punta a svalutare le loro monete nei confronti del cambio dell'euro. Ecco, questa è una domanda aggiuntiva che credo la politica debba in qualche modo affrontare. Beh, evidentemente non per tutti i paesi dell'euro, l'euro è troppo forte, perché altrimenti avremmo già avuto qualche iniziativa anche della Banca Centrale Europea a livello di Bruxelles. Per alcuni paesi un euro a 1,30, oggi è 1, visto che continuiamo a citarlo, vi do l'aggiornamento, oggi l'euro è 1,29, eccolo qua, anzi scusatemi, 1,3303, un euro a 1,3303 va ancora bene. Grazie al presidente dell'Istat Enrico Giovannini, un ringraziamento da Sebastiano Berisoni, un auguro di buona serata a voi in ascolto, a tutti voi in ascolto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.